Io, la mia macchina. C'è davanti a me soltanto il deserto del Nevada. Il vento fra i capelli, la capote abbassata, il braccio al lato del finestrino. A un certo punto mi finisce la benzina e devo accostare. Provo ad accendermi una sigaretta. Ma l'unico fiammifero mi finisce nell'unica pozzanghera di tutto il deserto del Nevada. Già. Ci saranno almeno altre 8 ore di sole davanti a me, non c'è nessuno per miglia e miglia e non ho neanche un cappello. Probabilmente prenderò un'insolazione che la metà basta. Già. Mi specchio in quest'unica pozzanghera di tutto questo incredibile, infinito, bellissimo deserto. E la mia immagine mi sputa in faccia. Già. Sai sempre un po' contromano, sono unico ed incostante, ed ho un ciuffo un po' stravagante, sono alto e sono basso, sono troppo magro, ma troppo anche grasso. Irregolare, il mio hobby è proprio sgarrare, neppure un dugongo è più strano di me. Che sono un libero pensatore, non prendo ordini da nessuno, ma se lo dice il televisore, faccio anche mesi di digiuno. Credo di essere sempre me stesso, ma me stesso l'han creato loro. Mi sento molto particolare, ma canto sempre dentro al coro. La mia donna è una strana, ha il sorriso un po' come una rana, veste sempre un po' color topo, non so poi mica a quale scopo, ha un'automobile ultraspaziale con fari antigelo a controllo mentale. Porta occhiali da tafano alienato e dalla pelle blu metallizzato, ha un cagnetto in belle ribelle, firmato, griffato e rasato a pelle, neppure un dugongo è più strano. Siamo due liberi pensatori, non prendiamo ordini da nessuno, ma se lo dice il televisore, facciamo mesi di digiuno. Crediamo di essere sempre noi stessi, ma noi stessi ci han creati loro. Ci sentiamo particolari, ma cantiamo sempre dentro al coro. Lo sai che ieri ho mangiato un camaleonte arrosto? Ah beh, lo sai che fumo i petardi dalla parte della Nietzsche? Ah beh. Lo sai che porto gli occhiali senza lenti? Così mi posso grattare l'occhio? Ah beh. Lo sai che guardo la TV senza audio per guardare le facce? Ah beh. Lo sai che ascolto la TV senza guardarla? Qualcuno mi ha detto... Allora passa la radio, no? Ah beh. Che sono un libero pensatore, non prendo ordini da nessuno, ma se lo dice il televisore faccio anche mesi di digiuno. Credo di essere sempre me stesso, ma me stesso l'han creato loro. Mi sento molto particolare, ma canto sempre dentro al coro. Thank you.